Giovedì 11 luglio del 2013, 87.9, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, dal 1977, senza padrini, senza padroni, la radio è di chi se la sente e la voce dei senza voce. Per sostenerla, il numero di conto corrente postale dove effettuare le sottoscrizioni è il 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 0018. Roma. Diamo inizio a Visionari, come ogni giovedì dalle 14 alle 15, per parlare di cinema. Tutte le info le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti, trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 11 luglio, le nostre indicazioni, suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per questa settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra rassegne, festival e proiezioni, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, quelle del 2013 e parte del 2012. Per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info, l'indirizzo di posta elettronica, e oltre alla pagina sul sito internet c'è anche la pagina Facebook. Cominciamo con gli ospiti. Matteo Bastianelli, regista del documentario The Boston Identity, ci sei? Sì, buonasera. Eccoci. Per parlare con te di questo documentario, avevo visto in programmazione in un po' di festival, avevo preso contatti, eccoci qui finalmente. Raccontaci di questa operazione. Allora, The Bosnian Identity è un progetto a lungo termine che è nato nel 2009 e si è protratto fino al 2012. È sia un progetto fotografico che è stato pubblicato in un libro dalla casa editrice Podcast, che un film documentario, opera prima, che ho autoprodotto in collaborazione con l'Università di Roma 3 e il Dipartimento di il Dicospe, diciamo. Sì. È un progetto che vuole indagare soprattutto le conseguenze del conflitto in Bosnia-Herzegovina attraverso gli occhi dei giovani, dei ragazzi che hanno vissuto le conseguenze proprio sulla loro pelle, per vedere qual è l'identità bosniaca oggi, dopo che, diciamo, le guerre bosniache e le guerre nell'ex Jugoslavia hanno portato a fratturare un'identità comune, che è l'identità jugoslava. Da quel momento in poi tutte le repubbliche che facevano parte dell'ex Jugoslavia hanno dovuto ripensare in qualche modo la loro identità nazionale, e oggi è un giorno particolare, è l'anniversario del genocidio di Srebrenica, è il 18° anniversario, quindi è un giorno importante da ricordare, poiché proprio l'11 luglio del 95 a Srebrenica si consumò un massacro di più di 8.000 bosniaci musulmani, che vennero barbaramente uccisi e deportati in fosse comuni sparse tutt'oggi in giro per la Bosnia. Io in 4 anni di lavoro ho seguito anche l'operato della Commissione Internazionale per le Persone Scomparse, ho viaggiato lungo sia la Repubblica Srpska che la Federazione di Bosnia-Herzegovina alla ricerca di queste fosse comuni, da dove vengono tuttora esumate persone scomparse negli anni del conflitto. Oh, tra l'altro quel massacro avvenne sotto gli occhi delle truppe internazionali. Esattamente, a Potoçari, dove c'era il comando Dutchbat, erano presenti 3 plutoni olandesi di caschi blu dell'ONU, che avevano il compito di proteggere la popolazione di Srebrenica, che era indifesa e che era stata dichiarata un'enclave musulmana protetta già da alcuni anni. Quindi il massacro avvenne sotto gli occhi impotenti dell'ONU, che in quell'occasione, come in molte altre, ha dimostrato la dubbiosità di certe missioni all'estero. Io tra l'altro ho scoperto con piacere, nel senso, questa concomitanza con la puntata di oggi e questo triste, drammatico anniversario, quindi è un modo anche per ricordare quello che avvenne. Ecco, in molti casi c'è stata rimozione del conflitto. Per quanto riguarda i bosniaci, Matteo? I bosniaci stanno facendo i conti con il loro passato recente. Non è facile lasciarsi alle spalle una guerra che per molti ancora fanno fatica a definire una guerra civile, ma in pratica questa è stata, perché i cittadini bosniaci sono stati attaccati in casa loro dai vicini di casa. È stata una guerra terribile, molti l'hanno definita una guerra etnica. In realtà io oggi a Sarajevo non vedo, come non c'era allora, un'impossibilità a far convivere diverse etnie, perché i matrimoni misti in Bosnia erano più del 40%, cioè ognuno dentro casa c'era un marito magari musulmano, la moglie serba ortodossa e altri parenti che erano croato-cattolici, quindi non è mai stato un problema quello della convivenza. Hanno voluto semplificare, come spesso accade, la prima vittima della guerra è la verità, e quindi io devo dire che tutt'oggi, con le storie che ho seguito a Sarajevo e in giro per la Bosnia, vedo dei ragazzi che non si trincerano dietro l'appartenenza etnica o religiosa, sono dei ragazzi che con molto coraggio, malgrado la disoccupazione a livelli altissimi, le industrie ferme, i pochi investimenti avvengono da parte di chi aveva il dovere di proteggere la Bosnia negli anni del conflitto, ma che ha cavalcato invece il business della ricostruzione, lasciando, diciamo, le operazioni di pace agli accordi di Dayton del 95, che in pratica legittimarono la pulizia etnica avvenuta nella Repubblica Srpska, dividendolo e spaccando il paese in due parti. Un paese che è ingovernabile, perché ogni 8 mesi si alternano al governo un capo croato cattolico, bosniaco musulmano e serbo ortodosso, quindi ognuno fa gli interessi per il proprio gruppo di potere, e è difficile prendere delle decisioni. La Bosnia fa fatica ad andare avanti, è veramente una situazione difficile, però i ragazzi in ogni caso cercano di fare qualcosa, cercano di vivere il loro futuro, anche se non è facile. Io ho seguito la storia di Adis, che è un ragazzo che durante la guerra ha perso sia il papà che il nonno, e che a guerra finita è andato a inciampare su una mina antiuomo mentre giocava con alcuni suoi amici. Pronto? Operazioni in giro per il mondo. Ha perso un braccio, ha perso un occhio, e malgrado tutto ha un gruppo rap a Sarajevo con il quale canta le proprie disavventure. Lui dice: noi non abbiamo bisogno di fingere in nulla, perché in quello che cantiamo nella nostra musica rap c'è solo la realtà, la triste realtà che abbiamo vissuto negli anni del conflitto. Ecco, Adis è un messaggio di speranza e di forza, perché malgrado tutto non si è abbandonato alla depressione né all'odio contro chi gli ha fatto passare tutto questo. È un ragazzo che sta vivendo la propria vita, adesso ha appena avuto un figlio con la moglie Naida, e io sarò il padrino al battesimo di loro figlio. Quindi insomma, questo è un modo di vivere le storie e di raccontarle, che esula un po' dalla semplice missione di reporter o di giornalista. È una documentazione partecipata di una realtà che solo vivendo in prima persona puoi riuscire a raccontare in quella complessità della vita giornaliera, che non si può, diciamo, ridurre a delle semplificazioni. Sì, le semplificazioni generano luoghi comuni. Sì. Sono pericolose, bisogna... spesso sono pericolose le semplificazioni. Sì, assolutamente. Senti Matteo, qual è il bilancio finale, se c'è, esistono delle stime ufficiali delle vittime del conflitto? E poi in chiusura volevo sapere anche dove sarà, dove si possono avere informazioni sul tuo documentario e se c'è un calendario di proiezioni. Allora, al momento diciamo che le stime per quanto riguarda le vittime del genocidio di Srebrenica si aggirano sopra gli 8.372 morti. In totale la guerra bosniaca, c'è una guerra delle cifre come sempre, chi parla di più di 100.000, chi parla di più di 200.000 morti. Le cifre ufficiali spesso sono a ribasso rispetto a cifre che portano avanti invece associazioni degli scomparsi, delle madri in cerca dei figli come le donne di Srebrenica. Comunque, al di là della guerra delle cifre, quello che possiamo dedurre è che quando avviene un atto del genere, che è stato il peggior massacro dopo la fine della seconda guerra mondiale in Europa, nel cuore della civilissima Europa, bisogna in qualche modo fermarsi a riflettere sul significato di governi. La Bosnia adesso è tornata in voga un po' come metafora di quello che sta accadendo in Siria. L'opinione mondiale è disgustata per le violazioni dei diritti umani, ma tutti i governi delle maggiori potenze europee e internazionali non fermano la vendita delle armi, non c'è un embargo su questo, perché questo in un momento di crisi come oggi porta a degli introiti grandissimi ai quali poche nazioni rinunciano. Quindi il significato della non belligeranza, eppure di una lotta per la pace, di una lotta non violenta per la pace, è in qualche modo, secondo me, l'unica forma auspicabile di risoluzione dei conflitti. Per quanto riguarda The Bosnian Identity, noi abbiamo da poco siglato un accordo con The Open Reel, che è una società di distribuzione torinese che si occupa della circuitazione del film ai festival e anche delle vendite ai broadcaster. Quindi diciamo che dopo la partecipazione al B-Fest di Bari, dove abbiamo vinto il premio per il premio Vittorio De Seta per il miglior documentario, abbiamo partecipato al Festival di Bellaria, al Festival di Roma 3 al Palladium a Roma, e stiamo avendo altre proiezioni dopo l'Umbria World Fest a Foligno e altri cinema qui a Roma. Quindi ci sarà modo di vederlo, insomma. Sì, ci sarà modo di vederlo, sarà in programmazione anche in Abruzzo al Tagliacozzo in Film, che è una rassegna molto interessante curata da Veronica Flora, e poi diciamo che il calendario delle proiezioni verrà aggiornato nel corso dei mesi sia su The Open Reel che sul sito di The Bosnian Identity. Quindi insomma avremo informazioni. L'autunno è prevista anche un'uscita in DVD. Benissimo. Che è stato prodotto dal Dipartimento dell'Università di Roma 3. Matteo, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto per la prossima. Va benissimo, grazie a voi per l'ospitalità e buon ascolto anche ai radioascoltatori. Ciao Matteo. Arrivederci. Matteo Bastianelli, regista del documentario The Bosnian Identity. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, poi c'è la pagina Visionari sia sul sito internet della radio, ossia ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e sia su Facebook. Ecco noi Dario Albertini, regista del documentario Slot, che è stato presentato alla Rome Independent Film Festival. Dario, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, grazie, salve, ben trovati. Allora, mi interessava molto la tematica, che è piuttosto diffusa, riguardo al tema del tuo lavoro. Sì. Dici un po' di questa storia. Sì, diciamo che noi abbiamo Abbiamo iniziato le riprese ormai quasi 2 anni e mezzo fa, quando ancora diciamo questa tematica non era così, diciamo, diffusa, non era così visibile sotto un certo punto di vista, cioè, nel senso che ora se ne sente tanto parlare. Quando ho iniziato a girare questo documentario, quando ho conosciuto Franco quasi 3 anni fa, si sentiva poco parlare di questa dipendenza, ma quando conoscevo Franco, lui mi ha raccontato la sua storia, che era già da 15 anni che lui aveva insomma questa situazione, cioè quella del dipendere da questo gioco. Quindi quello è stato quello che diciamo in parte mi ha fatto venire voglia appunto di raccontare questa storia e di realizzare questo film documentario. Oh, tra l'altro il nostro è un paese piuttosto assuefatto ai giochi di ogni genere, dal lotto al totocalcio, insomma c'è una lunga tradizione che arriva fino alle slot machine con tutti i disastri che provocano. Sì, ripeto, veramente 2 anni, quando ho iniziato 2 anni fa, sì, c'è sempre stato e tutto quanto, ma ultimamente se ne parla proprio tanto, proprio perché diversi fatti di cronaca, insomma, che sono successe svariate cose anche di, insomma, anche con degli, insomma, abbastanza gravi, e quindi ha fatto, diciamo, tutto questo ha fatto molto notizia, e quindi se ne parla di più. Però, come dici tu, in realtà comunque ha radici molto insomma il discorso che parte da lontano. No, stavi dicendo, per quanto per quanto mi riguarda, guarda, io quando ho conosciuto Franco, che è l'interprete di se stesso, è il personaggio del mio film, insomma Franco è una persona, è una fonte inesauribile, quindi non sapevo mi ha raccontato la sua storia, sono rimasto affascinato, non sapevo proprio da dove iniziare, ma volevo comunque raccontarlo, quindi diciamo ho deciso di appunto nel film racconto una storia, che è quella di Franco, che è alle prese con questa dipendenza, perché raccontare, poi denunciare questo sistema di gioco era la cosa che mi interessava di meno, ma perché pensavo che con la storia di Franco poi forse insomma questa storia denuncia molto di più di qualsiasi altra forma, perché comunque lo seguo per 2 anni, ho vissuto con lui 2 anni, quindi diciamo sono gli effetti, no? Poi di questa dipendenza, che a me interessava, cioè a me interessava vedere come vive una persona che ha a che fare con questa dipendenza. E quindi quello, io diciamo paradossalmente nel film l'atto, cioè la slot, il gioco si vede anche poco, però si sente, insomma. Si sentono molto le cause. Senti Dario, e che idea ti sei fatto in proposito, visto che hai seguito una persona che è vittima di questa patologia? Guarda, io sono un po' caduto dalle nuvole, nel senso che per me era una realtà completamente estranea, cioè io ho anche detto più di una volta, cioè per me parlo di videopoker perché era appunto l'ossessione di Franco, quindi per me il videopoker era un arredamento all'interno di un bar, cioè io andavo a prendere un caffè, vedevo queste macchinette, vedevo che qualcuno giocava, insomma, però ho sempre visto più come non ho il resto, prendo un euro, lo metto lì e finisce lì. Invece quando ho conosciuto appunto Franco, mi ha raccontato la storia, quando ho iniziato a frequentare questi posti dove lui frequenta, insomma dove lui va a giocare, la cosa che mi ha scioccato e che mi ha, forse è stato quello l'input che mi ha fatto venire voglia di raccontare insomma la sua storia, quindi questa dipendenza, è stato il fatto che ho visto che c'era come una sorta di regolamento, no, tra i giocatori, cioè è una cosa molto radicata, cioè c'è un regolamento, ci sono i giocatori, cioè quello, la persona che lascia la sigaretta, cioè se tu trovi una sigaretta sopra un videopoker accesa, sono diciamo, codici, no? Vuol dire che qualcuno stava giocando e quindi è andato al bagno o si è allontanato un attimo, e quindi il giocatore esperto sa che non può andare a giocare in quella macchinetta, perché c'è un giocatore dove magari già ha perso 5, 6, 700 euro e quindi spera di recuperarli, e quindi tu non puoi arrivare fresco fresco, anche perché magari arrivi con un euro in fili e magari vinci tu, no? Quello che ha caricato lui. Quindi insomma tutto questo mi ha insomma, sono rimasto stupito da tutto questo mondo, no? Che c'era a mia insaputa, e quindi questo diciamo mi ha incuriosito, e quindi ma avrei un milione di aneddoti, è un mondo veramente ricco insomma di antecedazioni, quindi non so, anche gente che va a prendere queste persone che magari hanno chiesto soldi a qualcuno, e quindi cioè, questo si vede nel film, quindi il film è completamente un documentario dove Franco interpreta se stesso, e quindi dove tutto è reale, e quindi ce ne sono tante cose non abbiamo potuto montare perché per questioni di privacy, quindi di liberatori, infatti abbiamo un materiale insomma abbastanza corposo. Senti, come sarà, dove sarà visionabile Slot dopo questa presenza ai festival? Sì, abbiamo fatto dei festival, come dicevi tu, Roma, Bologna. Le prossime date insomma di proiezione sono il 29 luglio Bari, poi abbiamo questa cosa con Estate Doc della Cineteca di Bologna, che faremo tipo un docking tour, una sorta un mini tour dove porteremo appunto Slot nelle piazze dell'Emilia Romagna, mi sembra Modena il 30, Bari vicino Bologna il 3 agosto, poi saremo nella patria di Franco, nella Sardegna il 29 agosto, e per quanto riguarda le sale, forse a settembre tramite Mercoledì Doc riusciremo a portarlo in sala, e stiamo chiudendo degli accordi per l'home video, quindi insomma la visione poi in DVD, diciamo. E c'è un vostro sito internet per saperne di più? Sì, abbiamo un sito internet dove ci sono un po' di informazioni, che è www.sullastradafilm.it. Benissimo. C'è la scheda del film, ci sono dei trailer, degli estratti, insomma un po' di curiosità. Bene Dario, io ti ringrazio, a risentirci. Grazie alla prossima. Grazie a voi per questo spazio, grazie mille. Ciao Dario. Buon pomeriggio. Dario Albertini, regista del documentario Slot. Bene, è con noi Caterina Monzani, ci sei? Sì, ci sono. Oh, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa per parlare con te del documentario di cui sei co-regista, La Valle dello Iato, giusto? Sì, giusto. Allora, raccontaci di questa avventura, di questa storia, di questo racconto. Allora, è un documentario che ho girato con un'altra persona, è un ragazzo che si chiama Sergio, di Caporecchio in spagnolo, e l'abbiamo cominciato insieme nel 2009, e quando siamo andati a incontrare il documentario segue la storia di Teleiato, che è una piccola televisione con persone familiari in Sicilia, Pinico, che si è resa famosa negli anni per una serie di interessi contro corruzione locale. Quindi abbiamo pensato che era una buona idea per un documentario, abbiamo cominciato a svilupparlo nel 2009, conoscendo Pino, la sua famiglia, e seguendo un po' delle inchieste che ritornavano nel tempo. Quindi siamo andati avanti così per un paio di anni e l'abbiamo completato l'anno scorso, nel 2012. E allora, come siete venuti a conoscenza di questa realtà, e poi che peso ha non solo a livello locale? Ma siamo venuti a conoscenza perché entrambi viviamo a Londra e lavoriamo qua, abbiamo studiato qua dopo l'università e siamo poi rimasti qua a lavorare. e c'era un partecipato al concorso per avere un fondo di sviluppo e volevo fare qualcosa, un documentario in Italia che parlasse un po' di libertà di informazione e un po' questi temi più legati al giornalismo, e cercare magari una storia più piccola invece che affrontarla magari da dei punti di vista più generali. E così ho fatto un po' di ricerca e leggendo un po' di riviste, in realtà ho trovato un piccolo articolo su Pagliazzo, una piccola intervista di Magnacci, che è il fondatore e frontman. E così è nata l'idea. In realtà si prestava molto a tanti punti di vista, perché comunque è una piccola realtà che fa tantissimo e che ha una risonanza grande non solo nelle varie province intorno a Palermo, ma anche in generale per i movimenti antimafia in Sicilia e in Italia in generale. Quindi era un'ottima storia su cui poi cercare di indagare un po' più a fondo chi è veramente quest'uomo, non solo la faccia di Pregliato. Senti Caterina, come... Sì. Volevo chiederti come funziona, come si finanzia una piccola realtà del genere e come è strutturata a livello lavorativo, quanta gente ci lavora e come ci lavora. Ok, allora, come si finanzia? Praticamente penso che sia aiutata molto dalle varie associazioni come Libera, che lo aiutano un po' con le bollette. Però in generale è una televisione, fino a quando noi lo seguivamo era una televisione comunitaria, quindi non aveva dei profitti. Una delle regole è, credo, non avere profitto, quindi in più ci lavora la sua famiglia, quindi in realtà non avevano tante spese e non avevano nessun tipo di reddito. E mentre la seguivamo è diventata poi una TV commerciale, perché è passata al digitale press. Sì. E adesso penso che sono a mia, in realtà non lo so, comunque quindi sopravvive. E sai quante persone coinvolge più o meno e se ha avuto delle difficoltà, allora, a livello di minacce o cose del genere? Allora, i due, diciamo che ci lavora tutta la famiglia di Pino, quindi sì. Pino fa la figlia, il figlio, la moglie e adesso anche la figlia più piccola credo che si sta coinvolgendo nella gestione. E poi in realtà ci sono tante altre persone, penso che non poche, ci saranno altre 8-10 persone che comunque passano o fanno le interviste o danno una mano in montaggio. Quindi è un po' vario. E adesso hanno creato un'altra relazione che si chiama Pele Junior, dove ci sono giovani che vanno lì magari per fare esperienza di come si fa giornalismo, e lì ci sono penso altre 5-6 persone che variano ogni mese. E ha subito pressioni di qualche tipo? Sì, specialmente all'inizio. Anche nel documentario ne parliamo, nel 2018 ci sono stati vari momenti, Pino è stato tutto, hanno trovato la macchina incendiata, oppure Pino è stato malmenato, molte volte vengono trovate delle scritte contro Pino Magnacci in giro, anche mentre eravamo lì. Quindi in generale lui è molto supportato sia tecnico che in tutte le province dove il segnale di telegrafia arriva, però ci sono anche molti atteggiamenti di minaccia. Sì. Caterina, ecco, un'altra cosa volevo chiederti, lavora tutti i giorni questa televisione, che tipo di palinsesto ha e che orari segue, insomma, com'è strutturata più o meno? Allora, è uno dei telegiornali più lunghi d'Europa, perché dura sulle 2 ore e mezza, a seconda di quanto Pino vuole parlare. Comunque sì, è molto lungo e più o meno lavorano, la loro giornata tecnica è dalle 9 fino veramente alle 9-10 di sera, perché comunque Pino fa tutto, quindi va in giro a fare le interviste durante la mattina, cercando anche che tipo di storie seguire. Si passa dalla politica magari alla cronaca, a episodi un po' più leggeri, come può essere, c'erano non so, due americani accampati in spiaggia, queste cose un po' più light. E poi dopo, all'ora di pranzo, vanno in redazione a montare, il telegiornale va in onda dalle 2 alle 4 E dopo niente, ritornano a fare delle interviste e il telegiornale va in due volte al giorno, quindi mattina, ora di pranzo e la sera, sempre lo stesso, però è una specie di continuo. Quindi soltanto la domenica si riposano. Si riposa solo la domenica. E soltanto la dire dalla finale. Quindi un lungo telegiornale, poi cronaca che può essere sia politica che cronaca spicciola, insomma, anche, sì, anche un po' più leggera. Quindi questa è più o meno, esatto, l'organizzazione del palinsesto di questa televisione. E quindi c'è anche adesso è passata tutto al digitale. Locale, quindi sono tutte notizie abbastanza locali, sono tutti i comuni intorno a Palermo, da Corleone, Martinico, Cinisi. Quindi è una realtà molto territoriale, insomma. Sì, esatto. Senti Caterina, per saperne di più su... Si può anche vedere online comunque, se uno lo vuole vedere. Eh beh sì, se è passata al digitale, sì, sì, sì, sì. Senti Caterina, esatto, a questo punto dacci i tuoi riferimenti per quanto riguarda il documentario, per saperne di più in rete dove si può cercare, e sia per il tuo documentario che a questo punto per la televisione stessa. Sì, allora, Playarto la potete trovare al sito della televisione, che è www.playarto.it, e lì ci sono tutte anche le informazioni anche sul nostro documentario, però anche per Facebook puoi seguire un po', se uno vuole seguire. Molte persone che hanno visto il nostro documentario hanno cominciato poi a seguire Playarto quotidianamente. E invece il nostro documentario per ora lo stiamo mandando ai festival, si può vedere un trailer online, e posso darti la pagina Facebook, sì, sì, sì, sì, va bene, del documentario, ed è su Facebook, è La Valle dello Iato, sì, a trovare lì, e si può trovare il trailer, e poi anche indicazioni su dove viene, cioè, a fine luglio saremo a Est Film Festival a Montefiascone vicino Orbe, e sì, poi sì, speriamo in altri. Bene Caterina, è stato un piacere, spero anche di grazie risentirti presto. Un abbraccio. Va bene, grazie ancora. Un abbraccio fino a Londra. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao Caterina. Caterina Monzani, co-regista del documentario La Valle dello Iato. Marco Dazzi, regista del documentario Parole Sostenibili, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, grazie, saluti a tutti. Marco, allora, Parole Sostenibili, il tuo documentario mi è parso subito interessante, ne ho voluto parlare con te in diretta, di cosa si parla, cosa sono queste parole sostenibili? È un viaggio intorno al significato della parola sostenibilità, e in particolare dell'aggettivo sostenibile. Un paio d'anni fa, esasperato un po' da questo uso eccessivo di questa parola, a volte anche inappropriato, mi sono preso la briga di sfogliare il dizionario e cercare il vero significato di questa parola. Da qui mi sono interessato al vero significato, comprando dei libri che parlavano della sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica, eccetera. E in questo studio ho pensato di realizzare un documentario raccogliendo i vari significati, da quello economico a quello ambientale, e appunto è venuto fuori questo piccolo e veloce documentario. Che viaggio hai fatto nel documentario? Diciamo che è stato sia un viaggio reale in vari paesi, sono stato in Giappone, sono stato in Inghilterra, sono stato in Germania, in Olanda, nel Nord Africa, e ho raccolto tanto materiale che ovviamente non ho utilizzato completamente. E poi è stato anche un viaggio metaforico, perché ho voluto ripercorrere un po' gli ultimi, diciamo, 50 anni del secolo precedente, da quando, dal famoso discorso di Truman, che si dava il via al consumismo sfrenato, cioè quello è il punto di partenza del consumismo che conosciamo oggi, e ho voluto ripercorrere un po' la storia del consumismo e quindi di conseguenza della degenerazione ambientale che stiamo vivendo. E quindi è stato un incontrare scienziati, incontrare scrittori, incontrare attivisti, agricoltori, per raccogliere e fare un punto della situazione di quello che è attualmente il nostro mondo, diciamo. Marco, a grosse linee, qual è la sostenibilità oggi? Ma diciamo che io ho sintetizzato con una frase che uso un po' come lo slogan del mio film, che ho raccolto nefaste previsioni e confortanti allarmismi. Nefaste previsioni nel senso che la situazione è drammatica, perché stiamo consumando più risorse energetiche e ambientali di quante esistono effettivamente. Se facciamo un calcolo matematico di quanto stiamo consumando, ci rimane veramente poco. Si parla di addirittura di decine d'anni, quindi non di centinaia d'anni, però confortanti allarmismi, perché il problema è noto. Nonostante il problema è noto, nel senso che gli scienziati, anche i politici, gli economisti sanno di quello che sta succedendo, la gente ne inizia a essere consapevole, quindi penso che la sostenibilità si intenda principalmente ora un consumo diverso. Non significa rinunciare al consumismo, al capitalismo, ma significa iniziare adattarci a un consumo diverso, sia dei beni sia anche della nostra vita. Ma questo non tanto per il pianeta in sé, perché il pianeta ha dimostrato nei millenni di sapersi rigenerare. Cioè, certo. Il pianeta basta che cambia di pochi gradi la sua inclinazione per provocare disastrose catastrofi, alluvioni, glaciazioni, eccetera. Quindi il pianeta sempre si rigenererà. Il pianeta, è difficile che l'uomo, tranne una guerra nucleare, distrugga completamente il pianeta, però se teniamo al futuro dei nostri figli, questo è preoccupante. Cioè, io ovviamente sono dispiaciuto, come tutti, del consumo del nostro pianeta, nell'abbruttimento, eccetera, però non sono preoccupato in sé del pianeta, ma sono preoccupato per la vita dell'uomo su questo pianeta. Come sappiamo, 1 miliardo di persone fa fatica a vivere, a sostenersi con l'alimentazione. Pensiamo cosa sarà fra 10-20 anni se andiamo avanti di questo ritmo. Eh sì, anche perché si cresce in maniera esponenziale, soprattutto nel secolo appena trascorso la crescita è stata a dismisura, sì, rispetto ai millenni, esatto. E ai secoli passati, insomma. Esatto, è stato proprio un'accelerazione incredibile. Poi, se posso aggiungere una cosa, volevo dire che alla fine il documentario è stato ridotto, sempre più ridotto, perché tutti mi dicevano delle cose che alla fine mi sembravano banali, nel senso che cose che sono sulla bocca di tutto, cose risapute, però alla fine la vera considerazione che ho fatto è che tutti sappiamo tutto, ma nessuno fa qualcosa di concreto. Cioè, anche noi, se te guardi la tua spazzatura, se guardi come ti muovi, eccetera, vedi il mio documentario e senti quello che dicono gli scienziati, gli scrittori, eccetera, ti rendi conto che alla fine tutti sappiamo tutto, ma nessuno fa veramente qualcosa di concreto nella nostra vita. Cioè, ovviamente tutti, non tutti, ma la maggior parte delle persone, per cambiare queste cose. Bastano veramente piccole cose per cambiare, non so, la mobilità in una città. Cioè, ad esempio, consideriamo di andare, chi può, anziché andare in macchina o con i mezzi, andare 3 giorni alla settimana in bicicletta, oppure presentarsi al supermercato con i propri contenitori. Sono tutte piccole banalità, però incidono tantissimo se tutti facessimo una scelta di questo genere. A questo punto ci dai dei riferimenti internet per avere maggiori informazioni su Parole Sostenibili? Sì, allora, Parole Sostenibili, c'è il sito parolesostenibili.com, oppure vabbè, sui social network lo trovi su facebook.com/parolesostenibili, oppure chi vuole contattarmi per avere una copia del DVD, oppure non so, parlare di progetti o sapere qualcosa di più, può scrivere a parolesostenibili@gmail.com. E l'ultima cosa che ci tenevo a dire è che anche il film è stato realizzato in maniera sostenibile, perché nella produzione del film è stata scelta non di comprare dell'attrezzatura nuova in alta definizione, eccetera, ma di utilizzare delle vecchie cineprese in Super 8 che erano pronte per essere buttate nella spazzatura, e quindi abbiamo utilizzato anche mezzi poveri per raccontare questa storia. Bene. E quindi abbiamo cercato di dare l'esempio, di consumare meno anche noi. Marco, io ti abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Marco. Ciao. Marco Dazzi, regista del documentario Parole Sostenibili. Saverio Di Biagio, regista del film Qualche Nuvola, ben ritrovato intanto a Visionari su Radio Onda Rossa, Saverio. Ciao, ciao. Tra l'altro, come ci avevi detto l'altra volta, noi ci eravamo sentiti in occasione dell'uscita in sala del tuo film qualche mese fa, tu sei un ascoltatore di vecchia data di questa radio. Beh, certo, per forza, per forza di cose. Allora, vieni dalla periferia, hai deciso di parlare di periferia nel tuo film. Per chi ci ascolta e non conosce la storia, dacci qualche nota così breve di introduzione. Sì, è un film, è la storia di un muratore romano periferico che decide di sposare la ragazza di sempre, che vive sul suo stesso pianerottolo e con la quale è fidanzata da quando era bambino. Va tutto bene fino a che non decidono di sposare. Da lì gli si complicano un po' le cose. Senti Saverio, un'esperienza che viene da lontano, nel senso, se non ricordo male, 15 anni come aiuto regista, da aiuto regista, e poi la partecipazione della tua sceneggiatura al Salinas, al premio Salinas nel 2004, e poi questa avventura cinematografica con amici per una produzione indipendente a tutti gli effetti. Sì, certo, il film si è fatto, diciamo, grazie a una cordata di produttori, al capo della quale ci sono Alberto Leotti e Massimo Di Rocco, ma ci sono pure Piccioni, c'è Massa Andrea, c'è Daniele Vicari, insomma ci sono quasi più produttori che pubblico. Senti, un bilancio a questo punto, visto che il film è stato in sala, ha girato anche un po' di festival, era stato presentato a Venezia, che bilancio ne fai a questo punto? Il bilancio, io, per essere un film d'esordio, è ottimo, perché è un po' la critica, che diciamo le firme forti della critica italiana hanno detto che è un film che va assolutamente visto. Ne cito due o tre, Escobar che scrive che sarebbe piaciuto a Pasolini, Morandini che mi dà 4 stelle su 5 e lo dà solo a 3 film italiani, e poi il Festival di Venezia, il film che è andato in Brasile, a Mosca, a San Pietroburgo, in Siberia, e probabilmente a novembre siamo in America, sempre con il NICE. In conclusione è positiva. Detto questo, se avesse avuto un'uscita diversa dal 27 giugno durante gli europei, probabilmente sarei ancora più entusiasta. Senti Saverio, tra l'altro tu hai citato un po' di amici alla produzione, da Daniele Vicari a Valerio Mastandrea, ma ci sono anche nel cast degli amici anche di questa radio, da Giorgio Colangeli a Elio Germano. Tutto questo ci stiamo sentendo oggi perché insieme al centro sociale occupato Ricomincio dal Faro, nel quartiere del Trullo, e anche questa trasmissione, hanno organizzato questa proiezione a cui purtroppo io, che dovevo in qualche modo presentare la serata, non potrò esserci, però mi piaceva parlarne con te e lanciarla quest'oggi al Trullo, alla Cinearena Baccelli. Domani sera la proiezione di Qualche Nuvola, ci sarai anche tu, dici un po' anche di questo appuntamento, Saverio. Beh, mi ha contattato Bruno, che è un ragazzo che ha gravitato intorno alla Gian Maria Volonté, che è la scuola della provincia, che appunto sì, che è nata per sì, volontà anche di Valerio e di Daniele, e mi ha detto se avevo voglia di fare una cosa così, una cosa di quartiere. Ho detto ma che scherzi, il film nasce per raccontare i quartieri, per raccontare le periferie, quindi non è l'idea che lo vedano, certo, delle persone che mi assomigliano, insomma mi inorgoglisce. Poi l'idea che ci mangiamo una cosa tutti insieme, se ne parla in maniera rilassata e mi fa sentire a casa. E questo sarà, poi forse ci raggiunge Elio se torna in tempo da Napoli. E io porto la famiglia, insomma, facciamo, mangiamo e vediamo il figlio. Mio figlio non sarà contento. Lui a terra mi ha proposto di vedere il gatto davanti a tutti, mi ha sfilato il microfono e mi ha detto. Propongo di vedere il gatto con gli stivali. Che ha fatto ridere perché lui ha 3 anni e mezzo, quindi ha già delle idee abbastanza chiare. Quindi ci sarà modo, insomma, di stare insieme, di incontrare te e parlare, esprimerci anche sul film. A questo punto, Saverio, io ti abbraccio, ricordo l'appuntamento domani sera al quartiere del Trullo, alla Cine Arena Baccelli. L'orario, Saverio, ricordalo. Ah, lo sai, non lo so. Però immagino 21, verso le 21, sì, insomma. No, io non sono preparato perché sono un po' un disastro sotto questo punto di vista. Però ci sarò. Ok. L'importante è che ci sarà e che ci sarà il film, per cui ci sarà modo anche assolutamente di vederlo le altre distribuzioni. Esatto. È una cosa più per amici e compagni. Saverio, un abbraccio, a risentirci presto. Un abbraccio a voi. Ciao. Saverio Di Biagio, regista del film Qualche Nuvola. Mario Petitto, regista del documentario Età del Cemento, presentato qui a Roma al Nuovo Cinema Aquila all'interno del Festival delle Terre. Mario, raccontaci, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, buongiorno a tutti, grazie mille. Allora, l'Età del Cemento, cos'è? Qual è, di cosa si parla? Allora, nel documentario Età del Cemento si parla di consumo di suolo sostanzialmente. Sì. E spieghiamo innanzitutto che cos'è il consumo di suolo. Ho cercato di raccontare che cosa vuol dire e perché consumiamo suolo in Italia. In realtà il documentario si è concentrato sulla Lombardia, ho deciso di fare questo viaggio in Lombardia attraversando i territori della Lombardia per raccontare appunto questo fenomeno che, come viene spiegato, divora ogni giorno 100.000 metri quadrati di suolo al giorno. Questi dati che avevo visto un po' di tempo fa mi avevano scioccato particolarmente, e da qui è nata appunto l'idea di capire, di toccare con mano, anche attraverso le storie delle persone che subiscono questo consumo di suolo, di capire che cosa fosse sostanzialmente. Per raccontare, lì dove viene colato cemento, che può diventare una casa o una strada o un centro commerciale o i capannoni abbandonati ultimamente che piovono ogni giorno in Lombardia, quindi abbiamo deciso un po' di raccontare questo fenomeno abbastanza sconvolgente, partendo dalla regione Lombardia, che è quella dove si consuma maggiormente suolo, ecco. È un problema di cui si stanno occupando diversi documentaristi, uno dei quali parlava della situazione, ad esempio, dell'Emilia Romagna, dove il problema è molto grave, perché viene consumato suolo che potrebbe essere benissimo adibito all'agricoltura per queste schiere enormi di capannoni industriali sottoutilizzati, tra l'altro. Sì, esatto, è lo stesso problema che in realtà poi abbiamo anche in Lombardia. Se si pensa che in Lombardia ha una riserva di parco agricolo, quindi di zone agricole enorme, la Pianura Padana in Lombardia occupa uno spazio gigantesco, viene erosa ogni giorno un pochino alla volta anche da questo fenomeno appunto dei capannoni, che in realtà poi, anche complice la crisi economica, rimangono totalmente invenduti e quindi abbandonati, e quindi finisce per essere una realtà di speculazione, quindi cemento che viene colato per speculare, e andando però a erodere quella che è una nostra risorsa fondamentale in Italia, quella dell'agricoltura, perché in Italia non abbiamo grandissime risorse minerarie o di altro genere, abbiamo l'agricoltura che è una delle nostre fonti in realtà primarie, e un pezzettino alla volta ce la stiamo giocando. Il Parco Agricolo Sud, che è uno dei più grossi di qui, della zona di Milano, che circonda Milano, ogni giorno subisce un attacco. Negli ultimi 10 anni si è stato eroso al ritmo del 12%, movimento, insomma la campagna va man mano sparendo, quindi la situazione è bene o male simile un po' in tutta Italia, con punte di eccellenza lì dove il consumo di suolo è più facile, diciamo, quindi dove si trovano situazioni favorevoli, una pianura, degli spazi abbastanza larghi, e lì in quelle zone si va a consumare più suolo. Il problema è che non c'è quasi mai un reale bisogno, o quantomeno il bisogno abitativo ci sarebbe, il problema è che non, quello magari di abitazioni a poco prezzo, insomma a basso prezzo, invece non è quello che viene costruito. Normalmente vengono costruiti appunto i capannoni di cui parlavamo prima, nuove strade quasi sempre inutili. In Lombardia nei prossimi anni ne dovrebbero piovere 9, ne sono in programma, tra Pedemontana, Tem, quelle che sono un po' più famose in Italia, spazi uffici che la maggior parte delle volte rimangono disabitati anche quelli. Insomma, è questo quello che nei 60 anni, negli ultimi 60 anni ha consumato piano piano il suolo più bello dell'Italia. E da qui è nato l'idea anche del titolo, l'età del cemento, appunto, certo. Perché ci sembrava abbastanza, insomma, diretto, immediato fare il confronto appunto con quello che è successo negli 60 anni, l'età del cemento, appunto, certo. È stato questo che ci ha caratterizzato. Senti. Sì, tra l'altro tu facevi prima, Davide, le cifre rispetto al consumo medio quotidiano, a fronte anche rispetto all'agricoltura, l'unica voce occupazionale in salita rispetto all'andamento complessivo nazionale degli ultimi tempi. E volevo chiederti anche se siamo arrivati a un punto di non ritorno, o esistono anche, e hai potuto verificare, degli esempi virtuosi di controtendenza. Ma allora, per fortuna il punto di non ritorno non l'abbiamo ancora toccato, perché di suolo, e purtroppo in realtà, perché di suolo da consumare ce n'è, anche se vi faccio un esempio e poi vengo alla tua domanda delle eccellenze, in realtà, di esempi positivi, in realtà in Lombardia sono potuto visitare paesi che si sono già mangiati il 93-94% del proprio territorio, ne rimane talmente poco da consumare che tra un po' lì in quei paesi sarà stato toccato il punto di non ritorno. Punti di eccellenza invece, situazioni virtuose ne ho incontrate lì dove ho intervistato esistenti, ecco, chiamiamoli così, a me piace definirli un po' così, persone che, per esempio, mi viene in mente Spighe Madia, è un consorzio di persone che hanno creato questi campi, da campi hanno iniziato a fare coltivazione e producono pane per 600 famiglie. Ecco, questo consorzio cerca di resistere al passaggio di un'autostrada, perché sopra quei campi ci si vuole passare con un'autostrada, e ogni giorno resiste anche a suon di ricorsi legali, di manifestazioni, e ecco, però questi sono secondo me gli esempi più virtuosi, perché loro non fanno una battaglia solo di puro tutela del terreno, così senza poi darne motivazioni. Loro fanno qualcosa, ogni giorno coltivano per fare pane che daranno a 600 famiglie intorno a loro, quindi a chilometro zero, e ogni giorno dimostrano nel piccolo che cosa possono produrre, al posto, se non dovesse passare, si spera appunto che possano vincere la loro battaglia, in un'autostrada, quella che invece si vorrebbe far passare. Ecco, eccellenze di queste ce ne sono, punte virtuose come queste ce ne sono molte in Lombardia, e si spera che un giorno siano maggiori queste rispetto al consumo inutile di territorio. Senti Mario, in chiusura ci dai dei riferimenti per quanto riguarda il vostro lavoro, il tuo lavoro, se sì. Su internet. Guarda, innanzitutto velocissimo volevo soltanto dire appunto che il lavoro non poteva essere realizzato senza Federica Orru, Elena Maggione, Carlotta Marrucci e alle musiche Vito Gatto, che sono stati un'eccezionale squadra. E poi per trovare il documentario è una produzione Legambiente mi ha appunto consentito di realizzarlo, e quindi basta scrivere a lombardia@legambiente.org se si vuole avere il DVD, oppure anche contattando me a appetito.mario@gmail.com. Un abbraccio, a risentirci presto Mario. Ciao, grazie mille a tutti. Ciao. Carlo Lo Giudice, ci sei? Sì. Ciao. Oh, ci risentiamo dopo un po' di tempo. Noi ci eravamo conosciuti al Salina Doc Fest un po' di tempo fa, e con questo tuo nuovo mini doc, che è una serie di piccoli documentari di un formato di una decina di minuti circa, che Zalab sta realizzando per parlare di cronaca, di attualità, di problemi del momento. Nel tuo caso stiamo parlando delle voragini di San Berillo, cioè della città di Catania. In che termini, Carlo? Questo è un documentario su delle voragini, appunto, dei grossi buchi che ci sono nel centro commerciale di Catania, cioè nel centro storico di Catania, uno dei pochi casi a livello di quasi mondiale, si può dire, in cui c'è una bidonville all'interno del centro commerciale della città. È una zona, diciamo, sono delle voragini profonde, 30 metri circa, in cui sono state costruite queste baracche nel corso del tempo degli anni 2000 da tre comunità diverse. Poi sono stati sgombrati una prima volta dal comune, e poi adesso c'erano soltanto una comunità di bulgari che abitano praticamente fuori dalla vista della gente, perché sono, diciamo, sottoterra, nel senso c'è sotto il livello del suolo, sì, e poi sì. C'è una paratia fatta attorno, per cui, diciamo, sono parzialmente visibili, ecco, questo. Oh, una delle... Diciamo, sì, sì, vai, continua. Nel senso che la cosa importante da dire è il fatto che queste voragini sono ciò che è rimasto dallo sventramento di un quartiere, di un antichissimo quartiere, uno dei quartieri più antichi di Catania, storico, diciamo, un quartiere che era l'anima della città, perché era il quartiere commerciale, era il quartiere dove c'erano diverse attività commerciali, piccole industrie, artigiani, anche gente molto intraprendente, molto, come dire, inventiva, di grande spirito, no? Era un quartiere che ovviamente aveva delle caratteristiche di malsanità, perché erano vicoli stretti, ma in un certo senso era anche cioè, penso ai Carrucci, no, genovesi, per cui non era una cosa malsana, ma nei termini, diciamo, della normalità storica dei posti. Sì. Invece negli anni 50, per una serie di scelleratezze politiche, diciamo, questo quartiere viene raso al suolo. È una storia antica che tutti conoscono, molto importante, perché è stata una delle, diciamo, delle operazioni, diciamo, edilizie più importanti del dopoguerra a livello europeo, per cui 30.000 persone sono state spostate dal centro alla periferia della città, in un quartiere costruito appositamente, che si chiamava San Berillo Nuovo, che era contro di San Leone, e vengono spostate queste persone, messe negli anni 50 praticamente fuori, completamente fuori città, senza servizi, senza autobus, senza collegamenti reali. Ma, diciamo, la cosa assurda è che ancora oggi, dopo 60 anni, nel centro della città non si è fatto nulla nel luogo dove prima c'era il quartiere, perché se fosse stato fatto un nuovo quartiere con una logica moderna, realmente funzionale, poteva anche avere un senso, anche se, diciamo, era comunque uno scempio storico e culturale, però invece la cosa assurda è proprio il fatto che sia rimasto così. Una delle tante grandi opere rimaste incompiute nel nostro paese, insomma. Sì, è una ferita aperta, indubbiamente, perché ora, diciamo, non ci sono i tempi per spiegare, ma è una storia molto lunga, complicata, fatta di corruzione, di un sistema di potere, diciamo, completamente malato, che c'è a Catania, che non funziona, e per cui, diciamo, queste voragini, diciamo, ho fatto il film perché in un certo senso, cioè, è un estratto da un film più lungo che sto facendo, che non è solo sulle voragini, ma è sulla città e sulla sopravvivenza in città. Ma questo aspetto, cioè questa parte della città, è assolutamente centrale nel raccontare, diciamo, la storia della città, perché si può dire che è una ferita originaria, potremmo definirla, è una ferita originaria della città, in cui si giocano le carte di quello che oggi è il futuro della città. Ancora oggi, diciamo, Catania piange e continua sulla stessa logica, diciamo, di incompletezze, di occasioni mancate di sviluppo della città, una città, diciamo fintamente moderna, in cui c'è un aspetto moderno, ma in realtà non riesce a crescere perché ci sono questi impedimenti. In un certo senso le voragini sono proprio un segno molto forte, molto chiaro, tangibile, sia di quello che è successo, ma anche di quello che succede oggi, cioè del fatto che c'è in corso una rimozione collettiva spaventosa, che per cui la gente quasi non sa dell'esistenza di questa, pur essendo proprio nel centro storico, cioè è una cosa che passa come se fosse una normalità. Immagina tu a Roma, cioè piazza Navona sventrata con le bidonville, cioè di questo stiamo parlando, stiamo parlando del centro storico, il centro commerciale della città, non storico, cioè storico in senso, però capisci, è una cosa. Ora si sta parlando per l'ennesima volta, perché ogni volta che ci sono elezioni fanno una campagna di apparente rinnovamento, buttano fuori le persone che ci stanno dentro e poi le cose si fermano. Ma pare che stiano facendo dei passi avanti, ma il senso è questo, cioè che questo posto è un'ennesima chance che Catania può avere, cioè è il modo in cui, ora a parte il passato, no? Il modo in cui verrà gestita questa operazione farà capire chiaramente dove la città decide di andare. Senti Carlo, io ho messo il link che rimanda al sito di Zalab, dove è visionabile Le voragini di San Berillo. A questo punto ci diamo appuntamento per la realizzazione del tuo lavoro completo, che poi avremo modo di presentare qui, spero. Esatto, un grande piacere, come sempre, Federico. È stato un piacere anche per me. Io ti abbraccio. Grazie. E a risentirci presto. A presto. Ciao Carlo. Grazie. Ciao. E siamo alla conclusione per questa settimana. Visionari, il giovedì dalle 14 alle 15. Le info le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia su Facebook. C'è la pagina Visionari e poi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.